Capitolo 162esimo. 9 anni di guerra. Non si sa con certezza quando i Greci inviarono a Priamo messaggeri per chiedere la restituzione di Elena e del tesoro di Menelao. Secondo alcuni, non appena la spedizione sbarcò nella Troade, secondo altri, prima che le navi si radunassero in Aulide. Ma si suppone comunemente che gli ambasciatori, e cioè Menelao, Odisseo e Palamede, precedessero i compagni partendo da Tenedo. I troiani, ben decisi a non restituire Elena, li avrebbero uccisi tutti se Antenore, che li aveva ospitati in casa propria, non avesse impedito l'atroce misfatto. Irritati da quell'ostinato rifiuto, i Greci salparono da Tenedo e tirarono in secco le loro navi in vista di Troia. I troiani subito accorsero in gruppi verso la spiaggia e cercarono di respingere gli invasori con una pioggia di pietre. Poi, mentre tutti gli altri esitavano, compreso Achille, poiché Tetil aveva avvertito che il primo a sbarcare sarebbe anche stato il primo a morire, Protesilao balzò sulla spiaggia, uccise un gran numero di troiani e fu colpito a morte da Ettore, o, secondo altri, da Euforbo o da Acate, l'amico di Enea. Codesto Protesilao, uno zio di Filottete e figlio di quell'Ificlo che Melampo guarì dall'impotenza, era stato chiamato da prima Iolao, ma gli fu cambiato il nome in seguito alle circostanze della sua morte. Egli giace sepolto nel Chersoneso Tracico, presso la città di Eleo, dove gli vengono ora tributati onori divini. Grandi olmi, piantati dalle ninfe, svettano nel sacro recinto e ombreggiano la sua tomba. I rami che guardano verso Troia al di là del mare germogliano presto, ma altrettanto presto perdono le foglie, mentre gli altri rami rimangono verdi per tutto l'inverno. Quando gli olmi crescono tanto che un uomo arrampicato sulla cima può scorgere distintamente le mura di Troia, allora si disseccano, ma nuovi virgulti spuntano dalle radici. La moglie di Protesilao, Laodamia, figlia di Acasto, che alcuni chiamano Polidora, figlia di Meleagro, era tanto affezionata al marito da non tollerare una lunga separazione, e non appena Protesilao partì per Troia, essa fece scolpire una statua di lui in bronzo o in cera e ogni sera se la portava nel talamo. Ma ciò le fu di magro conforto, e quando le giunse la notizia della morte del marito, supplicò gli dei perché avessero pietà del suo dolore e concedessero a Protesilao di visitarla un'ultima volta per 3 sole ore. L'onnipotente Zeus accolse la supplica di Laodamia ed Ermete ricondusse l'ombra di Protesilao dal Tartaro perché animasse la statua. Parlando con la bocca del suo simulacro, Protesilao scongiurò la moglie di seguirlo senza indugio e allo scadere delle 3 ore concesse, Laodamia si pugnalò tra le braccia della statua. Altri dicono che Acasto, padre di Laodamia, la costrinse a rimaritarsi, ma Laodamia, inconsolabile, trascorreva le sue notti accanto alla statua di Protesilao. Finché un giorno un servo che portava mele all'altare per il sacrificio mattutino spiò attraverso lo spiraglio dell'uscio e vide Laodamia nell'atto di abbracciare qualcuno che suppose fosse il suo amante. Subito il servo corse ad avvertire Acasto che, precipitatosi nella camera da letto della figlia, scoprì la verità. Per evitare che Laodamia si torturasse oltre nell'insaziabile desiderio, Acasto ordinò che la statua fosse bruciata, ma Laodamia si gettò tra le fiamme del rogo e vi perì. Secondo un'altra versione, Protesilao scampò alla morte durante la guerra di Troia e alzò le vele per tornare in patria. Portava con sé come schiava la sorella di Priamo, Etilla. Sulla via del ritorno egli sbarcò sulla penisola macedone di Pellene, ma mentre si inoltrava nell'entroterra in cerca di acqua, Etilla indusse le altre donne prigioniere a dar fuoco alle navi, e Protesilao, costretto a rimanere a Pellene, vi fondò la città di Sicione. Questo particolare tuttavia non corrisponde a verità. Etilla, con Astioca e altre prigioniere troiane, incendiò le navi presso la foce del fiume italiano Naveto, che significa appunto incendio di navi, e Protesilao non figura nel numero dei Greci che si trovavano su quei vascelli. Achille fu il secondo greco che mise piede in terra troiana, subito seguito dai suoi mirmidoni, e uccise Cicno, figlio di Posidone, con una pietra ben lanciata. Frattanto i troiani ritornavano in fuga disordinata verso la loro città, mentre i greci, sbarcati ormai al completo, li stringevano sempre più da vicino, uccidendo a destra e a manca. Secondo un'altra versione, Achille, sconvolto per la triste fine di Protesilao, fu l'ultimo a sbarcare, ma saltò giù dalla sua nave con un balzo così prodigioso che una sorgente sgorgò là dove i suoi piedi avevano toccato il suolo. Nella battaglia che seguì, a quanto si dice, l'invulnerabile Cicno uccise i greci a centinaia, ma Achille, dopo averlo invano assalito a colpi di lancia e di spada, lo percosse furiosamente in viso con l'elsa e lo costrinse a indietreggiare. Infine Cicno cadde incespicando in un sasso e Achille gli fu subito addosso. Premendogli le ginocchia sul petto, lo strozzò con i cinturini dell'elmo. Posidone tuttavia trasformò l'ombra del figlio in un cigno che volò via. I greci allora cinsero Troia d'assedio e misero le navi al riparo dietro una palizzata. Ora era destino che la città non potesse cadere prima che Troilo avesse compiuto i 20 anni. Alcuni dicono che Achille si innamorò di lui mentre combattevano l'uno contro l'altro. «Ti ucciderò», gli disse, «se ti rifiuterai alle mie carezze». Troilo fuggì e cercò asilo nel tempio di Apollo Timbreo. Ma ad Achille ben poco importava di suscitare l'ira del dio, e poiché Troilo si ostinava nel suo rifiuto, lo decapitò dinanzi all'altare, nel luogo dove egli stesso in seguito perì. Altri dicono che Achille colpì Troilo con la lancia mentre il giovane faceva galoppare i cavalli nel sacro recinto, oppure che lo attirò fuori del tempio offrendogli in dono delle colombe, e che Troilo morì con le costole fratturate e il volto coperto di lividi, tanto bestiale era stato l'assalto amoroso di Achille. Altri ancora dicono che Troilo fece una sortita da Troia, animato da cupi propositi di vendetta dopo la morte di Memnone, e incontrò Achille, il quale lo uccise, oppure lo fece prigioniero e in seguito freddamente ordinò che venisse assassinato. Ma poiché a quell'epoca Troilo era già un uomo di mezza età, dalla barba fluente e dalla carnagione appassita, ben difficilmente avrebbe potuto eccitare il desiderio di Achille. Qualunque sia stata la sua sorte, Achille ne fu tuttavia irresponsabile, e i troiani piansero la morte di Troilo quanto quella di Ettore. Si dice che Troilo avesse amato Briseide, la bellissima figlia di Calcante che era rimasta a Troia, e continuò a essere trattata con estrema cortesia, poiché non la si poteva ritenere in alcun modo responsabile del tradimento del padre. Calcante, ben sapendo che Troia doveva cadere, indusse Agamennone a chiedere a Priamo che gli venisse consegnata Briseide per evitare così che essa fosse catturata come prigioniera di guerra. Priamo generosamente acconsentì e alcuni dei suoi figli scortarono Briseide fino all'accampamento greco. Benché avesse giurato fedeltà a Troilo, Briseide ben presto trasferì il suo affetto su Diomede l'Argivo, che a sua volta si innamorò appassionatamente di lei e fece il possibile per uccidere Troilo non appena questi scendeva sul campo di battaglia. Durante un'incursione notturna, Achille catturò Licaone, lo sorprese infatti nell'orto di suo padre Priamo, intento a recidere rami di fico per farne raggi alle ruote del cocchio. Patroclo portò Licaone a Lemno e lo vendette al figlio di Giasone, il re Euneo, che forniva vino all'esercito greco. Il prezzo pattuito fu una coppa fenicia in argento. E Ezione di Imbro riscattò Licaone, che tornò a Troia per morire ucciso da Achille 12 giorni dopo. Achille si accinse poi a saccheggiare i dintorni di Troia con una banda di volontari. Sul monte Ida riuscì a separare Enea il Dardano dalla sua mandria, lo inseguì lungo le pendici boscose e, dopo aver ucciso tutti i mandriani e Mestore, figlio di Priamo, catturò il bestiame e saccheggiò la città di Lirnesso, dove Enea si era rifugiato. Minete ed Epistrofo, figli di re Eveno, morirono nel combattimento, ma Zeus aiutò Enea a fuggire di nuovo. La moglie di Minete, un'altra Briseide, figlia di Briseo, fu fatta prigioniera e suo padre si impiccò. Enea, pur avendo approvato il ratto di Elena, rimase neutrale durante i primi anni di guerra. Nato da Afrodite e da Anchise, nipote di Troo, si sentiva irritato dall'atteggiamento del cugino Priamo, che lo trattava con poco riguardo. Tuttavia il saccheggio provocatorio di Achille indusse infine i Dardani a unire le loro forze a quelle dei troiani. Enea si dimostrò valoroso guerriero, in grado di tenere testa persino ad Achille, poiché se Ettore era il braccio di Troia, Enea ne era la mente. La sua divina madre spesso lo soccorse durante le battaglie e un giorno, quando già Diomede gli aveva rotto una gamba con una sassata, lo salvò da sicura morte. Quando poi Diomede ferì anche la dea al polso con la punta della lancia, Apollo portò via Enea dal campo e lo affidò alle cure di Latona e di Artemide. In un'altra occasione la vita di Enea fu salvata da Posidone, il quale, benché ostile ai troiani, rispettava i decreti del fato e sapeva che i regali discendenti di Enea dovevano in seguito governare su Troia. Molte altre città alleate di Troia furono conquistate da Achille: Lesbo, Focea, Colofone, Smirne, Clazomene, Cuma, Egia, Lotino, Adramittio, Dide, Endio, Linneo, Colone, Lirnesso, Antandro e altre ancora, compresa Tebe Ipoplacia, dove un altro Ezione, padre di Andromaca, moglie di Ettore, e il suo compagno Podeo governavano sui Cilici. Achille uccise Ezione e 7 dei suoi figli, ma non ne spogliò il corpo, lo bruciò sul rogo ricoperto dell'armatura e attorno al tumulo che poi gli innalzò le ninfe piantarono un bosco di olmi. Tra le prigioniere vi fu Astinome o Criseide, figlia di Crise, sacerdote di Apollo sull'isola di Sminto. Alcuni dicono che Astinome era moglie di Eezione, altri che Crise l'avesse mandata all'Irnesso perché vi fosse più sicura, oppure perché partecipasse alla festa di Artemide. Quando fu diviso il bottino, Criseide toccò in sorte ad Agamennone, mentre Briseide toccò in sorte ad Achille. Da Tebe Ipoplacia, Achille si portò via il cavallo Pedaso, che aggiogò al carro con la sua pariglia immortale. Il grande Aiace salpò per il chersoneso Tracio, dove catturò il fratello di Licaone, Polidoro, loro madre era Laotoe, e in Teutrania uccise re Teutrante. Grande fu il bottino catturato e tra le prigioniere era la principessa Tecmessa, che egli fece sua concubina. Poiché ormai si avvicinava il 10° anno di guerra, i greci rinunciarono alle scorrerie sulle coste dell'Asia Minore e concentrarono le loro forze dinanzi a Troia. Dal canto loro i troiani fecero appello agli alleati, i Dardani, guidati da Enea e dai figli di Antenore, i Ciconi, i Traci, i Peoni, i Paflagoni, i Misi, i Frigi, i Meoni, i Cari, i Lici e così via. Sarpedone, nato da Zeus e da Laodamia, figlia di Bellerofonte, guidava i Lici e questa è la sua storia. Allorché il fratello di Laodamia, Isandro, disputava con Ippoloco per la successione al trono, fu proposto che chi dei due riuscisse a scoccare una freccia in un anello d'oro appeso al petto di un bambino sarebbe divenuto re. Ciascuno di loro si accalorò a pretendere che il figlio dell'avversario fosse prescelto come vittima, ma Laodamia impedì che si uccidessero a vicenda offrendosi di legare l'anello al collo del proprio figliolo Sarpedone. Pieni di ammirazione per un gesto così nobile e disinteressato, Isandro e Ippoloco rinunciarono alle loro pretese al trono in favore di Sarpedone, che regnava ora assieme a Glauco, figlio di Ippoloco. Agamennone aveva mandato Odisseo in Tracia in cerca di granaglie, e quando ritornò a mani vuote, Palamede, figlio di Nauplio, gli rimproverò trascuratezza e codardia. «Non è colpa mia», replicò Odisseo, «non mi fu possibile trovare granaglie, se tu fossi andato invece mia non avresti avuto miglior fortuna». Accolta la sfida implicita in quelle parole, Palamede salpò immediatamente e ritornò con una nave carica di provviste. Dopo alcuni giorni di tortuose meditazioni, Odisseo architettò un piano per vendicarsi di Palamede, poiché il suo amor proprio era stato profondamente ferito. Mandò dunque ad Agamennone il seguente messaggio: «Gli dèi mi hanno avvertito in sogno che un tradimento ci minaccia. Bisogna spostare l'accampamento per un giorno e per una notte». Non appena Agamennone ebbe dato ordini perché ciò fosse fatto, Odisseo di nascosto seppellì un sacco d'oro nel punto dove prima sorgeva la tenda di Palamede. Costrinse poi un prigioniero frigio a falsificare una lettera, come se fosse stata scritta da Priamo a Palamede. «L'oro che ti ho mandato», diceva la lettera, «è il prezzo da te richiesto per tradire i greci». Avendo poi ordinato al prigioniero di portare la lettera a Palamede, Odisseo lo uccise ai limiti dell'accampamento prima che potesse consegnarla. Il giorno seguente, quando l'esercito ritornò sul luogo occupato in precedenza, qualcuno trovò il corpo del prigioniero e portò la lettera ad Agamennone. Palamede fu condotto dinanzi alla corte marziale e, poiché negava disperatamente di aver ricevuto denaro da Priamo o da chiunque altro, Odisseo propose che si frugasse nella sua tenda. L'oro venne così scoperto e Palamede fu lapidato come traditore. Alcuni dicono che Agamennone, Diomede e Odisseo furono tutti e tre complici in quel complotto, che dettarono assieme la lettera al prigioniero frigio e poi ordinarono a un servo di nasconderla accanto a loro, sotto il letto di Palamede. Quando Palamede fu guidato al luogo della lapidazione, gridò ad alta voce: «O verità, io piango la tua morte che ha preceduto la mia!» Altri ancora dicono che Odisseo e Diomede, fingendo di aver trovato un tesoro in un pozzo profondo, vi calarono Palamede appeso a una corda e poi gli spaccarono il cranio con grosse pietre, oppure lo annegarono durante una partita di pesca. Altri, infine, sostengono che Paride uccise Palamede con una freccia. Vi sono poi opinioni discordi circa la località dove egli morì, se a Colone, Troiana o a Geresto o a Tenedo, ma un santuario eroico in suo onore è stato eretto presso Metimna, in Lesbo. Palamede si era meritata la gratitudine dei suoi compagni inventando i dadi, che si rivelarono utilissimi per combattere la noia durante il lungo assedio. La prima coppia di dadi fu consacrata nel tempio di Tiche ad Argo. Tutti poi invidiavano la grande intelligenza di Palamede. Egli aveva infatti inventato i fari, la bilancia, le misure, il disco, l'alfabeto e l'arte di appostare le sentinelle di guardia. Quando Nauplio ebbe la notizia di quell'assassinio, salpò per Troia e chiese soddisfazione, ma non ottenne nulla da Agamennone, che era stato consigliato da Odisseo e godeva della fiducia di tutti i capi greci. Così Nauplio ritornò in Grecia col figlio Superstite e Ace e diffuse false voci tra le mogli degli assassini di Palamede, dicendo a ciascuna: «Tuo marito si prepara a tornare da Troia con una concubina che sarà la nuova regina». Alcune di codeste infelici si uccisero, altre commisero adulterio, come la moglie di Agamennone Clitennestra, che si unì a Egisto, e di Gialea, moglie di Diomede, che si unì a Comete, figlio di Stenelo, e Medea, moglie di Idomeneo, che si unì a un certo Leuco. Nell'Iliade vengono narrati con continuità soltanto gli eventi del decimo anno dell'assedio di Troia, e ogni mitografo ha disposto in ordine diverso le vicende che si svolsero negli anni precedenti. Secondo Apollodoro, Achille uccide Troilo, cattura Licaone, razzia il bestiame di Enea e conquista molte città. Secondo le Ciprie, i Greci, fallito il tentativo di prendere Troia d'assalto, saccheggiano le città e devastano le campagne circostanti. Afrodite e Teti inducono Achille a incontrarsi con Elena. I Greci decidono di tornare in patria, ma ne sono dissuasi da Achille, che in seguito razzia il bestiame di Enea, conquista molte città e uccide Troilo. Patroclo vende Licaone come schiavo a Lemno, si divide il bottino, Palamede viene lapidato. Secondo Zezze, Troilo visse più a lungo di Memnone e di Ettore. Così pure, secondo Dare Tefrigio, Troilo succede a Ettore come comandante delle forze troiane, finché uno dei suoi cavalli viene ferito e Achille, sopraggiunto, schiaccia Troilo caduto sotto le ruote del suo carro. Achille cerca poi di trascinare via il cadavere e uccide Memnone che l'aveva colpito. I troiani si rifugiano dentro le mura della città e Priamo concede a Troilo e a Memnone gli onori di uno splendido funerale. La guerra troiana è un fatto storico e, qualunque ne sia stata la causa immediata, fu una guerra mercantile. Troia controllava il traffico col Mar Nero, donde giungevano oro, argento, ferro, cinabro, legname per la costruzione delle navi, lino, canapa, pesce disseccato, olio e giade cinesi. Caduta Troia, i Greci poterono fondare colonie lungo la rotta verso l'est, in regioni che stavano acquistando un valore commerciale pari a quello della Sicilia e dell'Asia Minore. Alla fine fu Atene che, come grande potenza marittima, trasse i maggiori vantaggi da quella situazione, importando merci dal Mar Nero e specialmente grano, che laggiù si vendeva molto a buon mercato. La perdita della flotta che controllava l'ingresso all'Ellesponto segnò l'inizio della decadenza di Atene a Egospotami nel 405 a.C. e pose fine alle lunghe guerre del Peloponneso. I laboriosi negoziati tra Priamo e Agamennone, dunque, non riguardavano la restituzione di Elena, ma l'eventualità di consentire ai Greci l'accesso all'Ellesponto. È probabile che i Greci si preparassero all'attacco decisivo, compiendo incursioni lungo le coste della Tracia e dell'Asia Minore per fiaccare le forze navali degli alleati di Troia e mantenendo nel contempo una base militare alla foce dello Scamandro per impedire che le merci giungessero a Troia dal Mediterraneo e che si svolgesse nella pianura l'annuale fiera mercato dell'Oriente e dell'Occidente. ma dall'Iliade risulta evidente che l'assedio non stringeva Troia in modo tale da impedire ogni comunicazione con l'interno, e benché, quando Achille si trovava nei dintorni troiani, non osassero oltrepassare alla luce del giorno la porta dardanica che si apriva sull'entroterra, né d'altro canto le lavandaie greche si arrischiassero a risciacquare i panni in una fonte a portata d'arco dalle mura, tuttavia viveri e rinforzi entravano liberamente in città e i troiani occupavano Sesto e Abido, ciò che assicurava i contatti con la Tracia. Il fatto che i greci si vantassero tanto della loro incursione sul monte Ida e nell'orto di Priamo ci fa supporre che in verità essi si avventurassero raramente nell'interno. I rami di fico usati per le ruote del carro di Licaone avevano lo scopo di mettere il carro stesso sotto la protezione di Afrodite. Nelle tavolette che risalgono a epoca anteriore alla guerra troiana, trovate a Cnosso, si parla spesso di cocchi cicloni dipinti di rosso, ben rifiniti in ogni particolare, ma viene specificato soltanto il legno dei raggi, legno di fico. Questo non era tuttavia il più indicato per tale scopo, e cretesi e troiani avrebbero potuto usare legno migliore. Agamennone si era impegnato in una guerra di logoramento di cui Ettore riconosce l'efficacia quando parla del lento esaurirsi delle risorse troiane dovuto al cessare dei traffici e della necessità di sovvenzionare gli alleati. I Paflagoni, i Traci e i Misi erano produttori, non mercanti, e pronti dunque a trattare direttamente con i greci. Soltanto i mercanti lici, che importavano merci dal sud-est, pare si preoccupassero molto per la sorte di Troia, che assicurava loro l'accesso alle strade carovaniere settentrionali. E infatti, quando Troia cadde, il commercio dell'Asia Minore fu monopolizzato dai Rodi, alleati di Agamennone, e i lici andarono in rovina. La spietata crudeltà con cui venivano trattati i prigionieri, le donne e gli alleati ci ricorda che l'Iliade non è un mito dell'età del bronzo. Con la caduta di Cnosso e la conseguente fine della Pax Cretensis, imposta dalla dea del mare cretese a tutti i paesi che si trovavano nella sua sfera d'influenza, si delinea la nuova etica dell'età del ferro, dominata dall'arbitrio del tiranno conquistatore, uno Zeus meschino che non ammette limiti alla sua divina volontà. Il sacrificio di Ifigenia, la feroce vendetta di Odisseo su Palamede, Licaone venduto come schiavo in cambio di una tazza d'argento, la spudorata violenza di Achille contro Troilo e il concubinaggio imposto a Briseide e a Criseide costituiscono una tipica saga barbarica. È comprensibile che Palamede sia stato la vittima innocente di un empio complotto di Agamennone, Odisseo e Diomede, poiché egli rappresenta la cultura cretese diffusasi nell'Argolide. Infatti le invenzioni che gli si attribuiscono sono tutte di origine cretese. La leggenda della sua morte nel pozzo deve essere stata suggerita dalle parole «Oh verità, io piango la tua morte che ha preceduto la mia», dato che la verità era sempre messa in rapporto con i pozzi. Palamede significa «antica saggezza», e come Efesto, il suo parallelo Lemnio, egli era un eroe oracolare. Le sue invenzioni ce lo rivelano simile a Thoth o a Ermete. L'origine dei dadi è identica a quella delle carte. Furono strumenti oracolari prima di essere usate nei giochi d'azzardo. L'olmo, che non fa parte del calendario arboreo, è per lo più associato al culto di Dioniso, perché i greci si servivano dei tronchi degli olmi per sostenere i filari di viti. Ma gli olmi furono piantati dalle ninfe attorno alle tombe di Protesilao e di Ezione, probabilmente perché sia le foglie sia la corteccia venivano usate come farmaci per le ferite e sarebbero stati ancor più efficaci se presi dalla tomba di principi morti per molte ferite. La leggenda della morbosa passione di Laodamia per la statua di Protesilao fu probabilmente tratta dalla raffigurazione di una scena nuziale. In alcuni suggelli nuziali Titi, il re sdraiato sul giaciglio, è inciso in modo così rigido che pare una statua. Il servo che recava mele all'altare per il sacrificio mattutino e il brusco ingresso di Acasto nella stanza di Laodamia fanno supporre che la scena rappresentasse la regina nell'atto di tradire il re con il suo successore, il quale taglia la mela fatale che contiene la sua anima, come accade nelle leggende irlandesi di Cuculain, Dectir e Curoi. Briseide, accusativo Briseida, fu confusa con Criseide, figlia di Crise, che aveva generato un bastardo ad Agamennone, e la leggenda medievale latina di Criseide, accusativo Criseida, si sviluppò e fiorì fino al Testament of Criseyde di Henryson e il Troilus en Cressida di Shakespeare. Teutrania è un nome che deriva forse da Teutis, ossia il polipo, animale sacro alla dea cretese e la cui gran sacerdotessa era Tecmessa, colei che ordina. Benché il mito di Sarpedone sia piuttosto confuso, tutti i suoi elementi risultano già noti. Evidentemente il regno di Licia, fondato da un altro Sarpedone, zio di un altro Glauco, cretesi di lingua greca e di origine eolica o pelasgica, che furono spinti oltremare dagli Achei, era retto da due re, con successione matrilineare, e l'appellativo della sacerdotessa della luna era Lauda Mia, domatrice del popolo. Pare che il suo divino paredro nascesse ritualmente da una cavalla, donde il nome di Ippoloco, mentre Isandro, uomo imparziale, era il suo compagno e successore. Il nome di Sarpedone, che si rallegra in un'arca di legno, si riferisce all'annuale arrivo del fanciullo dell'anno nuovo su una barca. In questo caso il fanciullo è l'Interrex cui Laodamia cede il regno per un solo giorno. Egli morirà poi come il Glauco cretese soffocato dal miele, o travolto da un carro come il Glauco istmico, o trafitto con una freccia dal redivivo Ippoloco come Learco figlio di Atamante. Colpire una mela posata sulla testa del proprio figlio o una moneta posata sul suo cappello era una prova di abilità imposta agli arcieri medievali, la cui associazione, come risulta dal Malleus Maleficarum e dalla Little Jest of Robin Hood in Inghilterra e nella Germania celtica, era legata al culto magico pagano. In Inghilterra, pare, la prova serviva per scegliere un Godman per Maid Marian e, sposandola, egli diventava Robin Hood, signore di Greenwood. Poiché il culto magico del Nord ha molti punti in comune con la religione neolitica dell'Egeo, può darsi che i lici non posassero l'anello sul petto del bambino, ma sulla sua testa, ed è altresì probabile che l'anello rappresentasse un serpente dorato, oppure che fosse l'anello dell'ascia che il bambino reggeva nella sua mano, simile alle asce che Odisseo trapassò con una sola freccia quando strappò Penelope ai pretendenti. I mitografi hanno forse confuso la prova di abilità nel tiro richiesta a un candidato al trono con il sacrificio di un Interrex. Etilla significa colei che incendia il legname, e la nave che veniva ritualmente bruciata ogni anno può aver dato origine alla leggenda di Sicione. Protesilao, signore del popolo, fu senza dubbio un appellativo regale, così comune che molte città rivendicano la tomba di codesto eroe.